finisco. Si è raffreddato, dimmi che si è raffreddato. No, negativo, c'è una voce che si sta aprendo. Non ho capito, la voce si sta aprendo. Ehi, come la LC, mi? Lei si è aperta a pompa, lei. Adesso la miglioriamo, guarda un pochettino, così va meglio, guarda. È positivo, dai, positivo. Guarda un pochettino, così dovrebbe andare bene. Passando il raffreddore. Io così, e tu come mai sei così potente? Vieni avanti un attimo. Non sono che sono sempre voi qua, però faccio il barattino. Poi dici, stai arrivando, radio amplificata, bella. L'acciaio è quello che ha fatto il commento, che aveva il berretto bianco in testa, che ha fatto il commento lì alla festa a raduno. Ah, capo. Ciao di Roger, ho capito. Presentato, insomma, Caparrucci. Quello era amico da diversa data, dai, siamo amici da lì, ce n'erano diverse che siamo amici da vecchia data, diciamo amici veramente. Allora c'è Tommaso Civa che è dall'87, tu puoi immaginare, dall'87 che siamo amici che ci frequentiamo, che ci vediamo non tutti i giorni ma quasi tutti i giorni lavorativi, dai, ci crociamo, ci vediamo e niente, sono i veri amici miei, capito? Sono gli amici che non ho avuto mai mezza parola, sai cosa vuol dire, scherzato, riso, ma non abbiamo avuto mai mezza parola di discussione. E si vede che sono persone in gambe, assolutamente. Io, ogni tanto lo sento anche Civas. Uno dei migliori, secondo me, diciamo l'amico più caro che c'ho, dai. L'amico che c'ho più caro perché non l'ho sentito mai ascoltato bisticciare con nessuno, è tranquillo e abbiamo un rapporto con Tommaso, dai. Tommaso, anche Andrea Prinzi, quello che ha presentato, anche quello. Quelli ce n'erano in mezzo, dai, ce ne sono di tutte le qualità, però ho detto, gli amici proprio, diciamo, selezionati sono quelli lì, capito, Andrea Prinzi, Tommaso Civa, Beppe Caffettiera, capito, sono proprio quelli più selezionati. Sentite, i carichi, gli amici servono, soprattutto nel momento del bisogno, i conoscenti si dileguano, gli amici rimangono. Gente in gamba, assolutamente. C'era adesso, ha organizzato un pranzo tra amici, ma io non sono andato, e l'hanno fatto sabato scorso, non questo sabato, l'altro sabato, l'hanno organizzato lì a Cagliari, però io gli ho detto che non ci andavo, e allora devono fare un pranzo lì a un ristorante, farlo insieme agli amici più stretti, però devo andare con Giovannino l'originale, ma lui è di matrimonio e poi solo io questo non me l'affronto, questa strada da solo e niente, allora l'hanno spostato, ce lo faremo un altro giorno e non l'hanno fatto. Andare che non conviene, che hai sentito che c'è la febbre del Nilo poi giù in Africa. Ma che te ne sei parlato tutti i giorni? E appunto, una cosa è stare in un convivio dove c'è gente, più gente c'è più pericoloso. Ne ha già seccato 4. Dici, ma di cavalli? No, di cristiani, non di cavalli, di cristiani. È positivo registrato. Dici, io stavo sentendo qualcosa, ma non era per certo, poi non ho seguito più. seccato un bel. Positivo, avanti il 3. Ti sento saturo, comunque boh, sembri addirittura fuori frequenza. Guarda, controllati un attimo. Sì, sì, infatti non riuscivo a capire. Ma mi sembra in mandare a tale, ma ti boh, sembri di prova di trofolo, prova di trofolo, così sì. Ma sarà che sei che si è stretta la radio ancora, secondo che cosa hai fatto, Ma me sembrava, lo sentivo meglio in USB, figura. Aspetta, o guardati la frequenza oppure prova a diminuire un pochettino. Ah, ecco perché. Prova, 1, ora, prova microfono, prova microfono, adesso più o meno dovremmo esserci. Adesso ci sei. Ero, già lo sei, davvero, e quindi ho un pochettino toccato il tutto e poi ogni volta che vieni qua devi fare la regolazione del microfono. Ma di Roger, sei in compagnia di Gigi Vulcano e di Antonio il Grodde, ben sentito, ben ascoltato, Fabio. Ok, dai, ti cordializzo. Aspetta un attimino, dimmi se che forse... Allora, 1, 2, 3, vabbè, tu mi direi se la radio è buona oppure sta strappando. Ciao Gigi Vulcano, ben sentito, ben sentito da casa Antonio, vi faccio compagnia, sì che non viene un amico a trovarmi. Vi ho sentito, stavo spazzolando e quindi sono entrato a salutare. Avanti. Positivo, ciao Fabri. No, adesso va tutto bene, è tutto a posto. Ma sì, perfetto, stai uscendo benissimo. No, prima che no, infatti non riuscivo a capire neanche cosa avevi detto all'inizio. A volte forse per andare su un'altra parte poi bisogna nuovamente allineare nuovamente tutto, se no è fuori fase. Ho fatto occhio, ma mi pare stavo uscendo con uno o due ratte, capito? È positivo, sembravi quasi in banda laterale, a dire la verità, è come quando fossi in banda laterale, capito? Ho capito, no, va bene, l'importante è che abbia risolto, dai, Gito, perché ogni volta che poi ti sposti devi ritoccare processore e cose del genere, l'importante è che vada bene. Avanti, Antonio, oggi una volta tanto che ti sento con una radio discreta. Una radio discreta? Beh, perché adesso sono nel QTH che conosci, no? Quindi è logico che, fra l'altro sono con, non sono con la binata, sono con l'altro. Sì, ma certo che va bene, non è che va male. Io adesso mi stavo pensando di cambiarlo, questa cosa che ho qua, ho preso contatti, al limite, poi lo prendevo ancora di più serio, capito? L'ho visto il 940 che... Io stavo pensando di prendere il 940. Addirittura? Quindi di quello te ne liberi? Può essere, perché questo ultimamente non ne voglio mettergli in mano, mi sta andando, va benissimo, non è che va male. Però non so se sono io, ho l'impressione che dopo vedi, quando ti arriva la Patagonia, mi te lo faccio vedere, va bene in tutto, ha un po' di cuore, è molto cuore dietro mi porta, hai capito? Ho rumore di fondo, adesso non so se è lui o... e quindi magari dovrei fare qualche allineamento o pulire, vedere, ma non aggiungare, hai capito? Quindi va bene l'apparecchio, ogni tanto mi rendo conto di questo problema e un po' mi sta rompendo. Di provare ad acquistare qualche filtro prima di fare la cosa? No, dovrei praticamente no, filtro, è proprio un problema di rumore di fondo rimane, no, un po' di troppe scariche, no? Non so se la zona oppure adesso per esempio aspetta. Per esempio io ho Santiago 8-9 di QRM qua, capito? Guarda, io ho 7-8 lo stesso, quindi è un po' un problema della zona, un po' un problema del tempo, quindi non lo so, è che bisogna evitare a volte di fare un attimino gli italiani, poi uno realmente fa quello che vuole. Non lo so, boh, adesso vediamo un attimino. Perché avevo provato quell'altro, io ti ricordo quello che stavo mettendo a posto e quello minchi in confronto a questo e lì mi è venuto il dubbio, ma non è che io che ci devo lavorare sopra. Minchia, aveva una, siccome ce n'hai 7,44, quindi 45 metri ci andava. Minchia, aveva una ricezione che era spaventosa, aveva un rapporto segnale-rumore bassissimo in confronto a questo, ma era spettacolare, capito? Per quello che l'ha messo in lui. L'altro giorno mi è venuto il dubbio sul mio. No, io, bisogna fare gli italiani, intendo questo, siccome era una critica che faceva un mio collega argentino, questo qua diceva, voi italiani quando andate a giocare, se non avete a giocare anche a calcetto, fai una volta alla settimana, se non avete le scarpette di Del Piero, sembra che la vostra prestazione nei deficit a tal punto da non farvi giocare. Quindi io sarei un attimino per prima aspettare, vedere un attimino impratichirsi bene, dopodiché ti godi di più la cosa, capito? Quindi per me inizialmente ce ne basta un'altra di questi apparati. No, ma infatti quando arriva, oppure anche quello, dopo lo vediamo subito, scusa Vulcati, ti sto lasciando un attimino, Gigi, se ti sto lasciando un attimino indietro, probabilmente, no, volevo vedere a paragone, ti farò vedere una cosa, secondo me, come dico io, il mio mi sta portando un segnale troppa spurcizia dietro, capito? Quindi i segnali bassi tende un attimino dalle scariche a coprirlo, ma potrebbe essere anche un problema atmosferico, non lo so. Ti ripeto, in questo periodo, dopo rilancio Gigi, in questo periodo assolutamente, io non so Gigi com'è, però soprattutto in questa zona le scariche ce ne sono parecchie. Poi soprattutto in questo, come si dice, in questi giorni che il tempo è un po' così e quindi sta entrando molta propagazione. Avanti Gigi. Ti posso dire che io viaggiamo un giorno a 4. QRM ce l'ho a 4 adesso, non ce l'ho molto, dico la verità, stavo guardando apposta, ma non lo so, no, non ce l'ho molto QRM, va bene, tutto sotto i filtri, ce li ho tutti inseriti e non ne ho QRM, proprio prima c'era molto di più, ma a volte sarà dalle zone, non lo so, perché mi è capitato di dirmi lì a Sassari di dirmi, ma c'ho quasi il QRM, quasi a 8, e qua non arriva. Dipende dalla zona, secondo me, da zona a zona. Assolutamente sì. Tra l'altro ti volevo chiedere una cosa. Ho notato con dispiacere, ma correggimi se sbaglio, che un po' il canale 45 si è, o forse perché non c'è più la propagazione di prima, cioè è diversa, sta arrivando molta propagazione dalla Russia, però l'ho notato un po' spento ultimamente, nel senso che prima arrivavi c'era un bailame devastante, era pieno di gente, cosa sta succedendo? Non so spiegare neanche io, no, non c'è poca cosa, proprio raramente, capito, raramente nel mondo. Cambiato il tempo, capiti, non lo so, è tutt'altra cosa, sta arrivando da, diciamo, prima sentivano molti spagnoli e cose, invece adesso sono tutte dalla, si sente gente dalla Germania, dalla Russia, non ho capito, prima erano, era difficile sentire questa gente, ascoltare questa gente qua, spagnoli si sentono sempre, l'abbiamo sempre sentito, quelli ci sono sempre, però non lo so, non c'è propagazione, non lo so, non me lo so spiegare neanche io. No, c'era proprio propagazione diversa, arrivava, a parte arrivava quasi ogni giorno, arrivava la Sicilia, ma soprattutto anche la Germania, adesso è tutto indirizzato verso la Russia, stanno entrando fra l'altro queste qua che sembrano telefoniste russe perché ripetono sequenzialmente le stesse cose, ciclicamente, sembrano quasi delle signorine del radio taxi, centraline del radio taxi, e poi completamente cancellata la propagazione sul canale 45, completamente. Avanti Fabio. Avanti con la buonasera. Avanti Brecco, ci sono state due bussate, avanti la prima e poi la seconda. Sandro sei tu, perché non riesco a capirti, Sandro sei tu. Gigino, ma la radio è un po' troppo amplificata, dovrebbe abbassare. Sì. adesso? Perché Claudio? Ok, buonasera a tutti. Sì. Claudio Scuderia. Alessandro, invece abbassa leggermente perché stai strappando, ce la fa bene, buonasera a tutti comunque. Circolari. Stai strappando, Sandro. Una alla volta. Mi è sembrato che ci sia stato un break. Avanti. sente in fondo qualcuno. O gli dici, guarda se lo fai entrare tu. Sì, va avanti il prezzo, stavo chiedendo il discorsino, se c'è ancora. Sì. Sì, buonasera, ciao, buonasera, buonasera a tutti. Lo Sparviero. Mi ho spostato un attimo con Sandro per fare delle prove, non so se sia qua, ho sentito anche Gianni Caprilua, non so se si è spostato qualcuno, comunque. Buonasera a tutti. Avanti Sandro, sei qua? Ok, dai. Buonasera circolare a tutta la ruota, niente, ciao Gigino, ciao Fabrizio, poi non mi ricordo chi fosse. Dai, un giudizio secondo la vostra ricezione. È perfetto al 100%, adesso l'altro è Antonio Gronte, e Fabrizio si è spostato con Luca che gli sta dando qualcosa di computer, dove come entrare, come funzionare qualcosa, e si sono spostati di canale. In questo momento siamo noi quattro, lo Spalviero, Claudio, io, tu Sandro e Antonio Gronte. Avanti per chi vuoi, Sandro. Ok, dai, ciao Gigi, ben ascoltato. Fabrizio, secondo la tua ricezione, come ti sembra questa modulazione? Allora, non stavi ascoltando, sai, io adesso si è spostato, c'è Antonio Grossi adesso in questo momento. Fabrizio si è spostato un attimino con Luca, un altro canale che sta spiegando roba del computer, non so. Ah, ho capito, siccome c'è un po' di abbattimento qua, è tutto lì, va bene, dai. Ciao Sandro, ben sentito, ben ascoltato. Qua abbondante di segnale, di modulazione come sempre, ottima. Mi è sembrato però di sentire un break in sottofondo, eh. Avanti il break. Io non so se lo ascoltiate, però c'è qualcuno che sta cercando di entrare sotto. Forse qualcuno è in propagazione. Non lo so, io ho sentito qualcuno che mi chiama, ma forse questa è un po' di propagazione che tiene un po' nell'aria. Aspetta, Sandro, come sei tu? Non sei in isofrequenza, Sandro, buonasera comunque. Non sei in isofrequenza e stai praticamente ripetendo la modulazione. Ti sento con una ripetizione audio, non so cosa stai usando, però non sei in isofrequenza. Allora, c'è Sandro, cosa sotto non l'avevo capito. Sì, non ti sentono, forse qua Sassari o ti ha sovramodulato Luigi Vulcano, non Sandro. No, non sei in isofrequenza, la modulazione non è chiara, hai un fruscio sotto, sembra che sei in FM, una cosa del genere, tanto per farti capire, ma sicuramente non sei in isonda. Ehi Sandro, appena sei disponibile siamo qua. Vediamo un pochino, ho sentito Gianni Caprilua che mi ha salutato. Gianni Caprilua, ci sei? Ho salutato, poi è andato via. Ok, va bene così. Fabrizio, sei rientrato? Luigi, riprendi. Sono spostati, stavo spiegando cosa al computer, voleva capire da Luca, dai, che lui molto più spesso a chattare e a non farsi, e quando entra il computer non devo farsi accorgere che ci sta, che c'è dentro, non so, curiosando, facendo una cosa del genere, dai. Perché dice ogni volta che entra subito iniziamo a chiamarlo, a farlo, a scriverli, allora c'era un sistema che può entrare e non se ne accorge nessuno che è dentro e non lo cerca nessuno. E io stavo spiegando Luca e sono spostati di canale, capito? Avanti Sandro da Porto Torre. Ok, dai. Ok, va bene. Negativo logicamente ascoltare Sandro Conan della parte mia, dopo quello. accendersi. Quindi ho guardato qua la spolateria sotto. E qua levo sto cazzo di cose di propagazione. Comunque mi sono dato, io che sono fatto il microfono io, mi sono fatto un video che ha avuto ospiti a casa, ha detto che è entrato più tardi. Ok Lu, ok, ma la batteria è squagliata, ma non mi risulta che nell'MC85 ci siano le batterie, Sandro. Positivo, cervano batterie, ciao comunque Luca, scusami, cervano batterie a filo, ci sono 4 batterie a filo, cervano batterie. Anche l'MC60 c'ha vanno batterie, ma non ce ne vanno. L'MC85 va alimentato dalla radio. Addirittura c'ha 8 volts. Non lo so Sandro, non mi ricordo, perché guarda, l'MC80, l'MC85 io l'ho avuto tantissimi anni fa, non mi ha convinto né uno né l'altro, sono passato all'MC60 e quindi niente, quindi non so esattamente che cosa dirti, veramente. Prova a toglierlo, prova a aprirlo, togli le batterie, puliscilo e attacca lo spinotto alla 440 e usalo senza, e prova a vedere se funziona con l'alimentazione 8 volts. Prova ad usarlo con le vano batterie senza niente e poi mi fai sapere, perché io mi ricordo che è così, uguale all'MC60 non deve avere alimentazione a batterie, quindi quel microfono stava lavorando con una radio sicuramente che non era della Kenwood, ecco perché gli hanno fatto quel carretto supplementare, perché quello non è il suo, gli hanno fatto il carretto supplementare e gli hanno messo le batterie dentro, quindi devi ripulire tutto lì, devi ripulire tutto e riprovarlo, Sandro. Ok, Claudio, adesso sono con l'85, infatti ho tolto tutte le batterie e adesso in effetti come hai detto tu, com'è? Ecco, adesso puoi fare le prove, adesso dovresti inserire il compressore, tirare sulla equalizzazione e rifare tutto, perché quel microfono stava lavorando non con solo gli 8 volts della radio, ma anche con qualcosa in più delle batterie che sono rimaste. Ok, certo, guarda, non si finisce mai di imparare. Ascolta, adesso ho portato al massimo il livello del microfono. Va bene, va benissimo, non c'è problema, prova a chiedere a Luigi a vedere. Positivo, però fai che è un po' disattento. Lo passi e poi lo porti al massimo per vedere la differenza, Sandro. Aspetta un attimo, ma scusa se mi intromesso io. Aspetta un attimo, faccio la TV qua. Ok, ma è il 44 interrogativo. Ehi Arucca, il 44. Ma lo sta spingendo però qua. La prima volta lo sentivo un bello pimpante, perché era grande. Ma lo sta spingendo la pastina, cioè la radio va bene, 5, quello vuole 2, però lo sta pompando. Luca, tu sei sempre disattento, o rimani in radio e poi fai le affermazioni, o se no devi abbassare il volume e stare al computer. Sta usando un altro microfono. Ah, qui, sì, va bene, questo qua è l'MC85, giusto? Vabbè, comunque lo sta spingendo questo MC85, per me, pure non so per gli altri. Non ho capito niente, cos'hai detto Sandro? Allora, adesso segnato tutti i vecchi modulatori, quel microfono era sovralimentato. Al che cosa succedeva? Che mentre tu usavi gli 8 volts per il circuito di preamplificazione, quindi generale, compressore, equalizzazione e modulometro, aveva anche inserito con qualche avvento supplementare le 4 batterie stilo, anche se è rimasta pochissima cosa in volts, perché era sciolto, vuole essere 1 volt, 2 volt, da 8 andava via 10, era sovralimentato. Quindi con quella pulizia che hai fatto, con tutta quella mondezza che hai tolto da lì dentro, perché non ci deve stare, quel vano batteria deve essere vuoto. Questo vano batteria serve solo esclusivamente per usare l'MC 60, 85, 80 in radio che non hanno l'alimentazione a 6 e 8 volts. Tanto è vero che quell'MC 85, come l'ho visto io ieri qua, ha un cavetto supplementare a connettere quello, non mi ricordo come si chiama, a quel connettore telefono spinetta, e le batterie inserite, perché quel microfono stava lavorando con una radio che non aveva alimentazione a 8 volts. Quindi fai piazza pulita di tutto, togline quel cavetto, togli tutta quella mondezza che c'è, te lo pulisci bene, te lo lasci attaccato, così, in queste condizioni, e stai uscendo magnificamente bene. Riprendi tu e chiedi un controllo all'altro che c'è qua a Sassari. Passo e lo lascio a tomare, non c'è problema, così lo sentire Sandro se davvero ha sistemato quel microfono. Non si è sentito stasera, non si è sentito. Ascolta lui, guarda a vedere, ma io posso aumentare ancora di radio qua sul 440. Sentiamo una mattina, vado alla DBC, quando esco prima. messo di nuovo, perché a me la passione, la calma di lavorare su quelle pelle mi viene a notte. E quindi niente. E mi ha dato un po' da fare. Era circa 3 anni fermo questa radio. Dovevo cambiare i condensatori, tutte le cose. E quindi poi una volta che l'ho tenuta accesa un po' di giorni usando 430, ho visto che era abbastanza stabile, diciamo prima mi si spegneva. Mi si spegneva, allora adesso ho visto che va bene, questo era Riccardo e sono contentissimo di averla io. Ci ho messo una settimana per farla bianca, pulita, ma adesso non la muovo, adesso è settimana, domani ne tocco con Sandro e spedisco quella di Tino sul continente, così la facciamo mettere a posto, poi si deciderà che cosa fare, dai. Ecco qua, se lo chiudo, l'ho inventato del tutto. Cioè tu, come non l'hai già finito che mi intacca, allucinante. Cioè, non ho dovuto aprire l'alimentatore, ma ormai ce l'ho vita, non sono di quelli alimentatori. Cioè, carica a partire del cibo, c'era presente, quelli piccolini, così. Ho dovuto aprire per attaccare i fili diretti, ma non è un problema di come si chiama? Non è un problema di carica batteria. Qua c'è scritto, c'è scritto 450 mA, c'è la Illunga 3 staccato 7, cioè 3 staccato 7 volt. Yeah. sincera. Vabbè. D'accordo, d'accordo, dai. Comunque, niente. Vi ringrazio per l'insulto che mi avete fatto, tutte e due cani morti, porto torresi di scoglio come me. Buco giù. Ciao Claudio Salutori. Ciao Motopompa, buonasera, ben ascoltato. Hai capito Giampa cosa ti ho detto? Grazie per quello che mi avete detto. Sempre a tua completa disposizione. Lo burin macchia a terra e la vedi che funziona bene, non ti preoccupare. Ma Luca, non arrivo. Andiamo un po' anche a te. Comunque, ricordati, ricordami che ti vuole mettere a Chiavettini. Adesso vediamo, o passi tu, cato, c'è ora, quel c'è un telefono con la tua aperto, per vedere un po' che qua me. Sono aperto per vedere nel nuovino, le crene sono nuove. Infatti il ricambio per la della Putti. C'è la batteria, poi guarda, te la posso mettere del Nokia. Cioè, bassi del Nokia, te la metti, dell'altro Sassi, quello mio, che adesso sto usando. Però il display funziona, l'altro, anche se il tuo è rotto, la della Putti. Cosa facciamo? Mettiamo anche la madre tua qua. Lo proviamo, se va bene, ti tengo questo qua. C'è l'ottimo per questi, tutto, tanto via, c'è tutto. Ehi, vabbè, non c'è problema, Alu. Già va bene. Non c'è nessun problema. Ottimo per la truppa e poi lo vediamo. Quando ci vediamo facciamo una... No, mi interessa mettere a posto quello, come si chiama, quell'altro del... la ricarica batteria di quello grande che mi ha detto Zumi, quello mi interessa in particolar modo perché è un signor telefono, capito? E così lo vediamo. Va bene. Ciao Antonello Pomponio, vieni avanti, fatti sentire dal Dio Claudio, fatti vedere. Sì, io sono qua, non ti preoccupi. Stasera ho attaccato un 23 canali, un inuito attaccato. C'eravate tu nel pare che era sul 10 e un altro era su 14. Non manco un colpo piglia, nulla, siamo delle splate, non esistono. Cerca, ti andiamo lo sistema adesso, me lo metto in ricezione con una bella antenna piazzata. Tanto che quanto altro più la colpita, va bene, faccio così. Giù. Avanti Antonello. Buonasera a tutti. Me, Antonello di Ossilandia, mi ciao Antone. Ma, cioè, vuoi ridere o Antonello lì? Allora, col 400 o 40, stavo prendendo colpi, sono dovuto passare col 140, questo è il 140. Col 440 c'è Gianni K2 sul canale 12, ma è bocchende. Allora sono dovuto passare col 140, col 140 non lo sento, questo è il 140. Questo è il 140. Non ho provato col 430, questo è il 140, però mi sento modulazione molto molto bassa. Cosa ne dite? Ciao Antonello di Ossilandia. Buonasera anche a te. No, anche a me lo stesso, sarà dato fastidio Capri 2, una edizione. Cioè sul 12, e a dirti sul 12 sentivo a te, insieme a lui, vado sul 14 e sento a lui. No, questo è meglio dell'altro. È bella la modulazione, pulita e tranquilla da parte mia. Andrà bene, Antonio, no. No, perché posso aumentare leggermente, ma secondo me va bene. Va benissimo anche così, dai, non c'è bisogno di tirarla su alla manetta. No, va benissimo, a voglia. Sì, ma anche a me, lo ripeto, anche a me sta andando di sblattero. Quello di Muros, si sente una lezione. È soltanto di frequenza, figura di tu. Quando era su 14 di qua era 27, 128, giusto giusto. 127 per l'esattezza, quindi 3 kg è qualche cosa. 5, 3, 8, no, no, già era 128, non sono 2. Ecco perché, vabbè, poi c'è anche il piccino 50, sai che il piccino 50 che problemi ha quando lo agganci, crea dei... non è un lineare ben fatto, capito? E crea dei problemi quando lo attacchi, ci si spugna da destra a sinistra. Sì, ma là in 14 c'ho le 27, 125. Ma lui siccome c'ha la panic fuori frequenza un po', se tu rotti, io ho notato subito, quando parlo gli parlo di sopra, si sente un fischio, si sente, quindi è come se io piglio mi sposto di frequenza di appena appena. C'è una modulazione molto metallica, a posto di essere normale, lui fa due così e poi anche pompando con il 50 quello che avevo venduto io, e una degli da 2 anni a questa parte, forse non so che macchina stai usando, lui se sta usando quello bianco e mi girando l'altro, comunque entrambi ci mette sempre le mani dentro nelle varie frequenze, cerca di fare modifiche strane, capito? Come è andata a casa sua, figurati, quindi se con gli appetiti gli altri tutti quanti toccati. Io so che sta usando il Midland, così l'ho capito qua nel 14, lunedì 12, il Midland sta usando. E quale tipo di Midland trattende? 40 canali con le bande laterali, è bianco di colore, maschera nera. Cioè io non sento a te, Antone, quando ti sposti di canale, ti attenta all'issue. No, vado avanti, non è la radio, no. Su tutta la radio me lo fa. Cosa vuoi che ti dica, Antone? Andrà bene, Guy, cosa? Non siamo lì a tirare molla, se no poi succede un casino. Allora, aspetta che sollevo un pelino ancora, ecco qua, esce a vedere. Non ho sollevato assolutamente niente. Mentre invece così, ecco qua, adesso ho sollevato leggermente, dai. Così va bene. Mi sentite bene con 140? Sì, anche qui ho visto appena appena, signore, che è aumentato, sempre perfetto. Leggermente il Mickey Gain e basta, tutto qua, solamente esclusivamente il Mickey Gain, e boh, perché ce l'avevo quasi a zero, non l'avevo messo a 1, 140, a 1 proprio sotto la M, va bene, se te lo sollevo al massimo, va bene, eccolo qua, te lo devo abbassare leggermente la cosa, così al massimo, ma tappa Antone. Tappare l'ha fatto un leggero fischio, poi se n'è andato. Più rauca te la fa la voce, leggermente più rauca. Io ho registrato il break, non è perché sono in cuffia, Antone. Sono ancora in cuffia e quindi è per quello che mi hai sentito fischiare, guarda. Lo vedi? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso lo abbasso, perché c'ho le cuffie quelle senza fili per camminare nella stanza, quindi niente. Avanti Black, buonasera. Che capo una cosa a parte, ma l'ho trovato a fare, lo ti accredo, sono un anio qua. Comunque, sono una tabacuga, ciao a tutti gli altri amici. Niente, domani porto il volume a fotocopiare lo schema, qua, poi in qualche modo glielo faremo per venire. Hai capito, devi portare il mio prototipo, tu lui già sanno che io sono lo schema dell'apparato. Dottore, ti rilancio e non mi posso trattenere che inizia il telegiornale, che quello del Leuco mi è scappato, purtroppo, come l'ha fatto per accogliarmi. Niente, nuovo telegiornale, vi saluto tutti e un proseguimento. Comunque, Sandro, diglielo che io sono lo schema. Ok, io Gianni, non c'è problema, dai. Appena sento Sandro, gli dico che c'hai praticamente lo schema del come si chiama, del 101 ZD. Va bene, sarà fatto Gianni. parole forse. Alcuni altri mi sentono male, ti chiedo lo schema di un barattino, questo qua per questa canale. Un indovente 23, ma lo dai domani, non ne ho di fretta per farlo adesso. E siamo in finale, sapete che è il finale monta originale. Tutto lì. Scusate, dimmi però la sigla giusta, qui sono tutti gli schemari, dimmi la sigla giusta Antonè, perché ce ne sono tanti tipi, dimmi la sigla giusta. Innoit CB 294. Esatto, sì, non ho io qui, e mi serve sapere che fila di monta di trasmissione. Via, alla prossima, monta il giornale, alle prossime. Ma io ando bene, ciao Gianni Capodio, alle prossime, stammi bene, e tante cosce belle. Uggia, uggia, va bene, e vanto me, non sei uscito stasera a Barracuda. È un girettino, ma niente di particolare. No, no, no, io totale rilassamento, oggi la domenica per me è un rilassamento totale, anche se domani non lavoro, però è un rilassamento totale. Domani poi ho alcune cose da fare molto importanti e quindi mi sono rilassato veramente. Ho dormito, ho pranzo, poi ho detto tutta la sera in radio, sono tutta la sera in radio, va bene così. Non ci sono altri problemi, dai, va bene. Poi domani c'ho tutta la settimana per poter stare in radio, quindi Antonio ci sentiremo anche domani mattina, non c'è problema. Ok, Gianni è andato a cenare, non so se c'era anche Falchetto. Come pare che è andato a cenare anche lui, boh, io poi mi sono allontanato, Antonio, Falchetto, ci sei ancora? No, evidentemente è andato a cenare anche lui. E riprendi tu, Antonio, dopo un po', vedi un po' se c'è anche Luca, o se sta cenando, se c'è Giuseppe in ascolto da qualche parte, credo che sia qua, non lo so, o che anche c'era, vedi tu là. Giuseppe, ci sei? Cosa, Antonio? Ah, Luca, questo è cinese, dunque, su internet. un ipotalo che ce l'ho anch'io. E quindi quando ci sono quelli che mettono la musica si mettono anche in gamma per far vedere che sono loro, capito? Tutto qua, va bene che va bene. Antonello, a te il microfono, dai. Allora ti piace così, lascio stare così questo 140, giorno al giorno si sta accendendo, va bene, sì. E a Puglia, se non c'è nessun problema, senza distorcere, perfetto e tranquillo, no, no, funziona bene a Puglia. Niente di particolare, notizie? Con chi stai parlando? Antonello! Aspetta, che ha un peso da fanculo, corretto. Allora, 2SC 1266 A 1. Ehi, adesso me lo segno, aspetta. Aspetta, che sta segnando il tutto, oh Gianni. Allora, 2SC 756, giusto 1, eh. L'altro è 2SC 1256 A, giusto? E d'accordo, allora, 2SC lo stesso. Adesso vai a cerchiare quanto viene, così lo compro il sistema sul bracchino. E di Stefano. Così io lo sistemo, glielo do. E ciao già, grazie. Ciao Gianni, buonanotte, alle prossime ci sentiamo, dai. Ok. Allora intanto nella baraccuda riprendi. Ehi, ti chiedo se c'è la notizia in generale. No, per il momento no, domani ci mettiamo un po' alla ricerca. C'ho tutta la settimana libera e quindi vediamo un po' di tirare fuori qualche notizia buona. Capo di Roggio, Luca, cosa stai combinando? Nulla. Nulla. Aspetta che abbasso qua. Ante, eccolo qua. Attenuatore, va bene che va bene. Siamo raggiunti da pigliare. Eccolo qua. Ma cosa che lo stai riparando, Antone? Un baracchino. Molto campa, cosa stai riparando? Un baracchino. Veramente sta ancora scrivendo. Perché lui è santio quando come si dice? Quando scrive, deve scrivere piano piano perché altrimenti poi si incasina e quindi è un casino. Oh, l'uguale è questo, il 140, sempre uguale modulazione, se no non cambia niente. Cosa qua? Ho detto questo, il 140. Sono sempre tutte uguali, no? Regolate tutte in una certa maniera. Ma va bene, se non ti dico niente vuol dire va bene. E va bene, ma tu c'hai una timbrica particolare, no? Diciamo che non cambia niente, dal 440, dal 430, tutti allo stesso livello c'hanno. Ma va bene, solo che io la rispingo un bel. Però mi ricordo qual è. Ma tutte sono belle, tra l'altro che stai in caccia, ma non vanno bene tutte. No, non cambia per farle girare, quella che gira più di tutti, la voglia più bella è quella del 430. Non c'è niente da fare, il 430 prevale su tutti, sia come recezione, come trasmissione, come tutto. È una vecchia radio, più vecchia del 440, più vecchia del 140, poi il 140 è uscito dopo. Però come modulazione non c'entra a fare, nel modo più assoluto. È troppo bella, anzi adesso cambio, commuto nuovamente col 430, spero. Se non spengo gli altri radio, è un casino. Senti che modulazione mascola. Sì, io te la sento. E che fai una voce sensuale quando senti le radio, Antonè? perché si emoziona. Quando sento le radio, in che senso? Perché tu hai fatto così, sì. Ah, già la sento. Ah, perché mi stava addolcendo, Simone, mi ha detto, se entri dentro 5 minuti, ti mangio tutto. Sì, Dio mio, a quest'ora? Tutte le ore sono buone, quando bindana, bindana. Sente qua. Ehi, via Raiso. Via Raiso, Antonio, che cosa vuoi farci? Purtroppo, la mia già quando... questa è la modulazione che ti piace, Luca, questa è quella del 430, questo è il DS430. Buonasera signori. Ciao signor Tigre. Ciao Sa, ben ascoltato. Io vi lascio che mi hanno chiamato che è pronto, saluta a tutti, ci sentiamo più tardi. Ehi. Ehi, ciao Antonio, ci sentiamo dopo, vai, non c'è nessun problema, ancora a me non mi hanno chiamato, appena mi chiamano andrò anche io a mangiare, poi sarò sino a tarda notte in radio, sino a tarda notte in radio, perché domani non si lavora. Avanti Sandro, buongiorno, anzi buonasera, cambio. Ehi, buonasera, buonasera. Salutoni Antonello Usilandia, ciao Antonello. Ciao. Allora, volevo fare un passaggio con l'MC60, ho staccato lo spettrone da dietro dal microfono. Che è stato il passeggio oggi, che stava non lasciato più. Ora non lasciato più, eh? Caparito, vai. Guarda che ti ha cercato Gianni, capri due di Buros, ha trovato uno schema del tuo barattino. Ha detto che vuole sapere come te lo deve portare, a mano o per posta. Poi, ciao Pomponio. No. Ce l'ho già, e c'ho tutto il dépliant, c'ho lo schema elettrico, c'ho tutto di quell'apparato lì, c'ho tutto. Te lo hai sentito un po'? Qua fa intanto. Ok. Allucinante, cazzo. Non è possibile. Allora, girare un zapatecalo. Claudio, non posso provare l'MC60. Fa niente, prova l'MC80. Oh, se siete qua, ci sentiamo dopo che provare a mangiare un boccone, dai. O qua o sul canale 10. Non c'è problema. Qua, comunque, secondo me si sta molto bene perché c'è meno problema, là ci sono quei russi che si mettono a parlare, a fare, e alla fine si comprendono accidenti. Qua è molto più libero la frequenza. Là. Se rimanete qua ci sentiamo dopo. Un saluto circolare a Sandro, a te Antonello, a Luca, a Antonello di Osilandia, e eventuali SWR che sono all'ascolto. Un saluto a tutti, buona cena per chi non lo fate, mi allontano, non metterete, poi sono nuovamente qua in radio. Buon proseguo a tutti. Sandro, stai andando benissimo. Ho capito. Va bene, dai, questa è l'MC60, dai. Ma con l'MC60 devi salire un pelino, devi aumentare qualcosa, non so se è cambiata l'impedenza, forse sotto non è attaccato il preamplificatore sotto il microfono. Il processore disinserito, cosa c'hai? No, è tutto ok, però guarda, adesso ci siamo, adesso sei tu, adesso va benissimo. era giusto per vedere se c'era qualche diversità, solo così, capito? Sì, veloce veloce ti faccio un altro passaggio. Allora, questo è il 60, aspetta. Ok, allora aspetta, questo è l'85, com'è? Vabbè, l'85 potresti tirarlo un pelino più su, non un pelino, prova. Ok, vedi un pochettino, prova. Lascialo stare così, ricordati questa posizione, perfetto. Sono tutte e due allo stesso livello. Questa è leggermente più chiara rispetto al 60, leggermente. Però il livello è uguale a quello del 60, Sandro. Per me io la terrei così. Quindi segnati questo punto di riferimento sull'85, lasci stare così. Ok. Il Machigain è bloccato, il Machigain dell'apparato è bloccato, sull'85 è soltanto giostrato sul volume del mic, ho fatto. Per me va benissimo, non te lo analizzo, come va Sandro? Va bene con tutti e due i microfoni, solo che da uno all'altro c'è la differenza che uno pompa di più e l'altro pompa di meno. E quindi deve regolare il macchinario e scendere in pratica con questo qua. Invece con 60 sembra che non ci abbia potenza, non lo so, comunque piace bene lo stesso. Come timbri è buona. Ok, no, era soltanto per vedere se l'85 c'ha qualcosina, non tanto, ma qualcosina in più del 60, soltanto quello lì. No, già ce l'ha, la spinta superiore sicuramente. Ma la gravazione della radio, nel senso che la timbrica è uguale, però spinge leggermente di più. Ok. Per altre prove tecniche di trasmissione ci sentiamo tra una mezz'oretta, che qua è pronta la cena e sinceramente ho fame. Beh, ci sentiamo dopo, una mezz'oretta sono volente con la radio, così se vogliamo fare delle altre prove le facciamo senza nessun problema. La più cordiale è buonasera a tutti e buona cena a tutti, a dopo. Buona carica, buon tutto, se coincide a più tardi, dai, buon po'. E andare, ciao, ci sentiamo, buona cena, buon tutto a dopo. Sempre facendo prove, sa. Facendo prove, no, siccome mi era venuto il pallino dell'85, pensando che l'85 avesse prestazioni migliori del 60, però mi sa che tra l'85 e il 60 mi sa che siamo lì, non è che sia tutto questo grande cambiamento. Ah, è buona, no? Non preoccupate, la modulazione è già perfetta. Un piano piano già, un buon microfono già lo alini bene con l'apparecchio. Mi dà pazienza.